se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Cioè, io sono passato in qualche settimana dall'essere l'uomo che aveva forse più potere in Italia a essere un cittadino. Non ho un incarico, non sono segretario del PD, non sono presidente del Consiglio. Se riparto, riparto da zero. Il regista è tutto lui, ha fatto tutto lui. La disgregazione di questo partito c'ha un regista, si chiama Renzi. Si chiama Renzi, se vogliamo trovare un nome e cognome, cosa che a me piace poco. Renzi non basta, è una novella questa che il PD possa arrivare da solo al 40%, non accadrà così. Vogliamo sperare che si torni ad una grande forza unitaria del centro-sinistra. Perché questo sia possibile bisogna battere la politica renziana. Massimo D'Alema, non andartene, corri, candidati alle primarie. Facciamo scegliere ai cittadini se è la tua idea di futuro o la nostra idea di futuro quella vincente. Non scappartene, non andartene, vieni. Facciamo le primarie insieme e vediamo in un partito democratico chi ha più consenso e chi ha più voti. Signori, io non so se voi abbiate già comprato i popcorn e le patatine e la birra, ma che spettacolo! Che spettacolo questo, non si può neanche dire catfight perché sono tutti uomini questi che si insultano nel Partito Democratico. Che spettacolo, che spettacolo! Lo so, questo era un assist, caro Presidente De Luca, la nostra conduzione 4.0 la stiamo mettendo a punto e arriveremo a far condurre il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presto prestissimo. Ebbene sì. Tutti a malindi. Noi, e tu a condurre, noi, io, Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè, Elisabetta Fusconi, Oscar Giannino, tutti quanti, noi. Tutti a malindi. Autentiche stupidaggini. Ecco. Signori, vi faccio notare che a Milano ci sono 7 gradi stamattina, mentre arriva un abbraccio da Dublino. In questo momento a Dublino ci sono 6 gradi. Ci sono invece 0 gradi e neve a Seattle, da dove ci segue la nostra Amina, la delfinologa. Dovunque vada nel mondo, Amina ci ascolta, sta con i delfini e ci segue da lì, da Seattle adesso. Ma non è straordinaria questa cosa? Beh, Chiara ci fa sapere che oggi a Perth ci sono 31 gradi. Ma Chiara, che ci fai a Perth? Cioè, stiamo iniziando a avere un po' di invidia nei tuoi confronti. Ah sì, è vero, una volta ti abbiamo chiamato anche in onda, quindi... No, ma questa ragazzi è fantastico. Guarda questo numero, caro Lorenzo, 00258. Qui ti sfido, 00258 e poi continua. A Maputo, che mi risulta essere in Mozambico. Maputo, capitale del Mozambico, 24 gradi. Ci stanno ascoltando da Maputo. Beh, ma è fantastico. Vabbè, poi Correggio 9 gradi, Reggio Calabria 14 gradi, Arzignano 7 gradi, San Pellegrino Terme 4 gradi, saluto Marco. E poi Gabriella 12 gradi a Sanremo, viva la città dei fiori. A San Juan di Casarsa, Pordenone 8 gradi. Ragazzi, ma è finito l'inverno? A Viareggio 12 gradi. Vabbè, dai, dai. A Varese 4 gradi, piove ed è buio, forza. È il nord al buio, sono le terre della Lega Nord, tutte al buio, tutte cupe, tutte tempestose, tutte... Ma adesso arriverà la luce con Berlusconi che ha indicato Luca Zaia come l'uomo che porterà la luce al nord. Tutto ciò mi serve per introdurre la nostra padanissima, cristiana, Aurora Lussana. Come stai, Aurora? Buongiorno caro Milan, un caro saluto a te e a tutti gli amici di Radio 24, gli amici di Radio Padania, tutti quelli che la mattina presto, come noi qua a Cantù, abbiamo 6 gradi, siamo già operativi come tutti i padani. Salutiamo anche gli amici di Radio Padania. Esiste ancora la Radio Padania? Resiste. Ah, io ho detto esiste, tu mi hai detto resiste. Salutiamo gli amici di Radio Padania, lunga vita Radio Padania, anche se loro mi hanno dato dell'imbecille, del cretino, dell'idiota. Io invece rispondo ai loro insulti con l'amore che si confà alla situazione giusta. Amici di Radio Padania, vi voglio bene. Voi datevi del cretino, dell'imbecille, dell'idiota e via. Un deficiente totale. Alessandro Milan. Ecco, un deficiente totale, mi ha detto, pure chiamandomi Milan, storpiando il nome che faceva Emilio Fede. Sì, va bene. Dai. Allora, insieme ad Aurora Lussana c'è Angelo Maria Perrino, direttore di Affari. Buongiorno. Bravo, ha detto bravo. Grazie. Direttore di Affari Italiani.it. Una bella aurora per me. Una bella aurora. Speriamo. L'aurora del nord, il tramonto. Ti ricordi lo slogan? Il tramonto di Roma, l'alba del nord. Era uno slogan di quella idea. Era uno slogan della Liga. Un po' di storiografia leghista. Ecco, sai cosa manca a Radio 24? Una trasmissione sulla storiografia leghista. Porcaccia miseria, ma guarda che ci potresti pensare tu. Adesso scriviamo alla responsabile dei programmi, Alessandra Scaglioni, proprio... Oh. Ah, sì. Un'ora a settimana o un'ora al giorno vorresti di storiografia? Ma per rieducare la gente servirebbe un'ora al giorno, un po' così come celebrare un po'. Un corso intensivo. Va bene, un'ora alla settimana. Anche un'ora alla settimana, va bene. Tu, Angelo Maria Perrino, ti potresti candidare a condurre... Sei ferrato in materia? Ma non ho capito l'oggetto del programma. Cos'è che è? È la storiografia leghista. Leghista. Ah, leghista. Ma io toglierei leghista, parliamo di storiografia to court. Scusa, ma che gli frega la Lussana? Perché solo leghista è un po' di parte. Ma vabbè, ma dai, poi dopo metti la storiografia dei Borboni, la storiografia dei Normanni. Ma come fa Minoli, no? Ma chi se ne frega, cioè, vuole fare la storiografia leghista. Minoli fa la storia, no? Vabbè, ma perché lui Minoli è bravo, io noi facciamo una cosa per Lega, vabbè, solo sulla Lega vuole, solo sulla Lega, solo no, visto sulla che Lega. Non sai mai niente, non sai gli slogan, non sai niente. Vabbè, allora signori, tu hai comprato i popcorn, Perrino? Guarda che se ne vedremo delle belle, delle bellissime, secondo me. Sì, questa storia infinita, dici, del PD, però io ho l'impressione che tenda a uscire dalle prime pagine ormai. Sì. Il peggio è passato, direi. E vabbè, ma oggi sulle prime pagine c'è comprensibilmente tutta ancora la vicenda. Ancora qualche eco, sì, ma perché noi giornalisti siamo dentro e ne risentiamo, siamo come degli specchi. In realtà nel mondo reale questa vicenda oramai è certo, attirata. Non frega nessuno, ma questo è ovvio, non frega nessuno. Oggi sui giornali, comprensibilmente sulle prime pagine, c'è la vicenda di DJ Fabo, ne parleremo anche noi, ne parleremo anche alle 8, adesso se volete vi chiedo anche un parere. Però prepotentemente adesso quando si entra in campagna elettorale, tanto siamo sempre in campagna elettorale, cioè di questa cosa di cui non frega nessuno, cioè non si parlerà di programmi, si parlerà di queste risse. Sai che D'Alema ha detto è un guappo Renzi, Aurora, è un guappo. siamo partiti così. D'Alema che dà dell'arrogante a Renzi è veramente il paradosso di questa vicenda. È l'uomo più arrogante che esista, credo sia D'Alema. È straordinario. Intanto... Bella rissa, ma divertono queste robe. Ma è bellissimo. No, per esempio, no. A me diverte anche l'OPA di Berlusconi sulla Lega, cara Aurora Lussana. Adesso ci spieghi un po' a che gioco sta giocando Berlusconi, che indica sempre Zaia. Sentilo qua, anzi, te lo faccio sentire. È Berlusconi che indica Zaia come leader. Cioè, il leader è lui, ma se non riuscisse lui... Il centrodestra dovrà al suo interno, se Berlusconi non potrà tornare in campo, trovare qualcuno. Voi avete un governatore, per esempio, del Veneto che si sta comportando molto bene. Zaia. E quindi dico Zaia, dico qualcun altro che possa emergere. Tanto parla di lui in terza persona, come se Berlusconi non ce la fa. Cosa sta facendo Berlusconi? Si sta personalizzando. Ma diciamo che lui è il solito furbo, è lì a Arcore, le pensa tutte. In questi mesi che attende la sentenza che lo può ricandidare o meno, secondo me sta tentando il tutto per fare nervosire il nostro Matteo Salvini, che però c'è i nervi saldi, e a questa manfrina qui ovviamente risponde con compattezza. Ieri nella sede della Lega c'era Maroni, Zaia, in mezzo a loro e due c'è la foto su tutti i giornali oggi, il Matteo Salvini che li abbraccia tutte e due, e ti dico, Berlusconi perché fa una furbata? Perché in effetti comunque Luca Zaia è molto molto molto amato dalla Lega, dai leghisti, dalla Lombardia. Sì. Viene considerato un leghista autentico, ma anche al tempo stesso è stato un ministro capace. Insomma, fa il furbacchione, per me è in difficoltà. Posso darvi una notizia? Dacci una notizia. Ma io ero a pranzo lunedì scorso con Berlusconi. Con Salvini e con Giorgetti, che è l'uomo forte della Lega. Bravo Giancarlo. Era uscita già questa dichiarazione di Berlusconi proprio quel giorno. Allora ho chiesto separatamente sia a Giorgetti che a Salvini com'è questa storia di Zaia, ci sta o no? E entrambi separatamente mi hanno detto ma no, Berlusconi cerca di dividere, e Salvini mi ha detto stamattina ho telefonato a Zaia e ci siamo fatti delle gravizzate. Dunque ha ragione Aurora, è proprio il cavaliere che cerca di... Cerca un po' di rompere le uova nel paniere, di sgomitare. Di infilarsi nelle vicende leghiste sperando che nasca qualche attrito, ma di là sembrano abbastanza coriacei dietro le spalle di Salvini. Anche se in politica poi sai, Milano. In politica mai dire mai, certo, però esatto. Zaia, che conosco bene, è una persona molto seria, molto rigorosa, anche se nell'aspetto sembra un po' così. Non bel ragazzo, Ma è un bel manzo veneto. È un leghista nomano, perché anche sempre bello e elegante, che voglio dire. Io gli aggiusterei un po' le basette, insomma, gli darei un look un po' meno campagnolo. Una cosa però devo dire, ho notato, se leggete i giornali è incredibile. Allora, tutti adesso sono alla caccia, ma è una caccia finta, e assisteremo a proposte strampalate. La questione è i nuovi poveri, le differenze sociali. Allora attenzione, perché assisteremo a tutto. Allora, c'è il reddito di cittadinanza, e questo il Movimento 5 Stelle da un bel po' di tempo lo propone. Renzi risponde con il lavoro di cittadinanza, che poi sono tutte proposte mascherate. C'è il reddito di autonomia in Lombardia, che è già legge. Eccolo lì, vedi. Reddito di autonomia in Lombardia, questa mi mancava, della Lega. Ora Berlusconi, leggo sul giornale, la svolta sociale, aiuti fiscali per i più poveri. Cioè si studia l'imposta negativa, sotto una certa soglia di reddito si ricevono i soldi invece di pagare le tasse. Caro Angelo Maria Perrino, cara Aurora Lussana, sarà questo il fronte la nuova campagna elettorale, cioè proposte, tra l'altro, che nessuno spiegherà quanto costeranno ai conti pubblici, quanto peseranno sulle casse dello Stato, però si dirà così: vi daremo questo, vi daremo quest'altro, vi daremo di su, vi daremo di giù. Sì, anche quella roba qui del fisco, chi ritira i ricorsi avrà degli sconti. Esatto, ci sono 32 miliardi di liti fiscali, vuole fare una sanatoria per recuperare dei soldi, ma dai, ma facciamo tutto. La politica scopre i poveri e si sa che i grandi numeri ormai li hanno persi, i poveri insomma sono stati dimenticati, quindi si cerca di recuperare con queste proposte un po' demagogiche. Il problema però è reale, non sanno gestire questi fenomeni dal punto di vista strutturale, trovano queste idee un po' strampalate. Sì. Renzi per fortuna le ha riviste, la storia dei bonus l'ha cancellata dalla sua piattaforma. Sì, però adesso c'è anche il lavoro, giustamente oggi Michele Serra fa la maca in prima pagina di Repubblica, il lavoro sociale, il lavoro di cittadinanza, una bellissima cosa l'idea, il lavoro di cittadinanza, ma dove, sì. Però chiede Serra, ma dove diavolo vai a scovare, a inventare i nuovi lavori, con quali risorse finanziarie, a quali bisogni sociali riferirli, che occhiali inforcare per poterli vedere? Beh, provi a parlarne, scrive Serra, Renzi a quegli anfitrioni californiani dove è andato e vedrà che lo guarderanno dicendo: ma dove sta il business, caro Matteo? Dove sta il business? Where is business in tutto questo bel discorso? Perché la California va bene, poi dopo si torna e si dicono le cose molto all'italiana, il lavoro di cittadinanza. Voi invece leghisti cosa avete fatto lì in Lombardia? Reddito di cittadinanza diventa in Lombardia reddito di autonomia. Sì. Ma no, ma guarda che già legge, non è che cioè, voglio dire. Anche in Puglia devo dire, anche in Puglia, una cosa del genere. È un sostegno momentaneo. Anche se non funziona e non è ancora partito, è stato annunciato da tempo, ma in realtà non è ancora applicato. Vabbè, ma è normale, voglio dire. È molto difficile stabilire chi ne ha diritto, è molto difficile. Nel paese delle pensioni di invalidità finte, figurati che cosa ci sarà a cercare di recepire questo. No, ma tra l'altro io lo voglio dire perché non si equivochi, cioè io non è che ce l'ho. Vedi qua anche il Messaggero, pagina 7, il welfare 2.0 di Berlusconi, sanità gratis solo ai poveri. Sono tutte questioni giuste dal punto di vista del principio, ma io dico italiani, non fatevi fregare! Puntano ai vostri voti! Ai vostri voti, non alle cose che dicono tutti, ai voti. Aurora, sbaglio? Voti a ma perdere. Milan, sì, no, sì, sì, però sbaglio. No, però allora che ci sia questa però ti dico, poi guarda che va bene così, cioè che almeno si ragiona su quelle robe qui, ma certo. No, ma certo. perché comunque questo reddito di autonomia che c'è in Lombardia si è legato proprio a una politica di se vuoi di sostegno anche alle famiglie che hanno difficoltà, penso a questo aiuto concreto che si dà per il bonus asili. Ma io sono contenta che si parla di quelle robe qua. Ma si parla di queste robe qua chissà quando, in campagna elettorale, da anni che dovevano fare il quoziente familiare per chi ha più figli e non lo fanno, è da anni che bisogna fare gli sgravi fiscali per chi fa più figli e non si fanno, casualmente in campagna elettorale tutti attenzione ai poveri, ai nuovi poveri con le proposte più strampalate. I nuovi poveri sono tutti già, tra l'altro, non gli italiani. Cosa sono i nuovi poveri? No, sì, aspetta, sì, Perrino, non so se hai sentito bene. Scusa, puoi ripetere? I nuovi poveri sono i? I Giargia, cioè nel senso perché... I Giargia. Sì, nel senso che tu sai che... Ma come parli, Aurora? Milan, sei un bravo giornalista, vai a vedere i dati relativi a quello che costano gli immigrati nel nostro paese, inteso come welfare, e capirai che gli aiuti vanno esclusivamente prendi un qualunque paese della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana. Su 100 euro spesi in questo paese, 80 euro finiscono inevitabilmente i nuovi poveri che purtroppo per loro quando arrivano nel nostro paese non hanno nulla, non hanno una casa, non hanno... Faccio così, sospiro perché ne arrivo il traffico, non per te, sospiro perché ne arrivo il traffico, il traffico. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo. Le corna belle. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Milan. Sai perché Trump ha vinto e in Francia vincerà la Le Pen? Perché i loro avversari sono maestri nel politicamente corretto. Vogliamo pane pane, vino vino. E buongiorno Alessandro, ma sono completamente d'accordo con voi, sono per l'eutanasia. Dobbiamo essere liberi. Io ti saluto da Macao, qui ci sono dai 12 ai 17 gradi, con lo streaming riesco a sentirti e a sentire le notizie, quindi un saluto anche da Macao. L'ho accompagnato io esattamente affinché non ricadesse responsabilità su qualcuno, è stato lui a chiedermelo. potrebbe eventualmente essermi contestato l'aiuto al suicidio, che è un reato punito con da 5 a 12 anni di carcere. Io spero prevalga in ogni caso la ragionevolezza e anche i principi costituzionali di libertà e autodeterminazione. Chi parla è Marco Cappato dei Radicali, che ha portato DJ Fabo a compiere il suicidio assistito in Svizzera. Anche qui c'è un pochino di ipocrisia nel parlarne. Tutti i giornali ne parlano, tutti i programmi televisivi ne parlano per due giorni, tre giorni, tra l'altro con una serie di errori incredibili. Si parla di eutanasia quando non è eutanasia, si accosta a Luana Englaro, che è tutto un altro caso, non c'entra proprio niente Luana Englaro. L'unica cosa che accomuna Luana Englaro a DJ Fabo è che sono morti entrambi. Questa è l'unica cosa che li accomuna, non c'entrano niente i due casi. Però se ne parla ovunque, se ne parla per due o tre giorni. Si accomuna anche alla questione della legge in discussione, che anche questa è una terza cosa. Non è che la legge in discussione alla Camera prevede eventualmente il suicidio assistito in Italia, cioè assolutamente no, men che meno l'eutanasia. Però dai, voglio un vostro parere, perché Maria Perrino qua se ne parla ovunque. Io credo, ho sentito ieri sera un dibattito in televisione con il leader della famiglia, invece mi sfugge il nome, Gandolfini, ecco, che sostiene che il diritto alla vita non appartenga alla morte, non appartenga all'uomo. Lo trovo un argomento giustificabile con riferimento a chi crede in Dio, e questo è da rispettare, ma in realtà noi siamo uno stato laico e dal punto di vista filosofico ed etico si sa che l'etica è fatta dall'uomo, è l'uomo che stabilisce le norme, e quindi se l'uomo ritiene in circostanze storiche particolari che sia opportuno legiferare in senso va fatto, perché non c'è un altro riferimento esterno all'uomo. Diceva Popper, non si può ricavare una norma da un fatto. Sì, se in natura stabilissimo che siamo tutti uguali, talché non si può dedurre una legge sull'uguaglianza. Sì, ma poi lì, guarda, decidere noi di fare ragiona, una legge sull'uguaglianza. Si ragiona anche di pesteccati. L'uomo sempre, sì, ma è chiaro, ma si ragiona poi pesteccati di logici e contrapposizioni. Anche esatto. Da una parte i cattolici che dicono la vita non appartiene all'uomo, esatto. Non inizia e non finisce in base, e dall'altra parte i laici che dicono no, c'è la libertà. Si scontrano, si danno testate, fanno dibattiti, litigano due o tre giorni, cinque giorni, dieci giorni, e poi una legge. Noi dobbiamo non c'è interrogarci e decidere se questa legge ci sta, votare, decidere e sottoporla al referendum, se del caso, se una maggioranza ritiene che sì, va approvata, perché dipende dagli uomini, non da... Poi vabbè, ieri avevamo anche Mariona Dinolfi in diretta alle 6:30 del mattino, qui poi si è lanciato in questo paragone con Hitler e i disabili, caccia miseria, ce l'avessimo qua davanti adesso, Marione cosa hai combinato, mamma mia, tante volte, va bene, ma la cristiana cattolica Aurora Lussana cosa ci dice? Inscrutabile. No, vabbè, non si può avere una risposta a tutto, Milan, non ce l'ho la risposta. Non lo so. Boh, uno pensa che la vita ha un valore non negoziabile, sempre comunque che va difesa proprio quando è più debole, in quel momento lì. Ma sofferenza, se il soggetto è direttamente interessato, sì, lo so, ma come giustamente ricordava Milan, è tutto molto complesso, dalla sedazione all'eutanasia vera e propria, questo farmaco che tu in maniera autonoma non lo so, Milan. Puoi passare. Faccio epoche, sospendo il giudizio, non lo so. Va bene. So. Io ci vedo una grande rimozione, non vogliamo occuparci veramente anche, di sicuramente, è talmente anche, profondo il dolore anche. Che ha scatenato un dolore profondo, cioè questo giovane bello, sano, che poi lo vedi lì che soffre e cosa c'è. Le persone anziane che sono allettate da 10 anni con l'Alzheimer, sulle spalle di famiglie già povere che non riescono a gestire. Io non vorrei che chi è malato si sentisse, siccome fanno sentire questi malati un peso, poi magari dicono per non essere un peso agli altri, ma facciamo così, andiamo in Svizzera. Quello vorrei che non passasse come messaggio. No, ma infatti questo sì. Un peso, e loro si sentono poi un peso, e per non far soffrire chi hanno intorno. Su questo non c'è dubbio che magari concorra il fatto di sentirsi, come dire, emarginati, di sentirsi non aiutati, di sentirsi... Noi stiamo colpevolizzando quasi questa gente che sta soffrendo. Ci sono malati ormai in condizioni di non vita, che non ha senso mantenere in vita solo perché non vogliamo occuparcene. Facciamo una legge seria, molto rigorosa, però facciamola. Tra l'altro, vedi che chiedono, Guido, ci spiega la differenza tra eutanasia e morte assistita o suicidio assistito. L'eutanasia è quando un medico ti introduce un farmaco. In questo caso il suicidio assistito è stato lui, DJ Fabo, come quelli che vanno in Svizzera, che autonomamente, schiacciando un pulsante, ovviamente assistiti da medici, ma si suicidano, cioè provocano la morte. In ogni caso, insomma, se ne discute, si litiga, paginate sui giornali. Poi la cosa più bella, la ricorderete, la fece Lucio Magri, un uomo straordinario, sì, di grande cultura, di grande tra i fondatori del Manifesto. Anche lui è andato in Svizzera, prese un treno, andò in Svizzera, lasciò alla governante i soldini per organizzare una festa con i suoi amici nel momento in cui lui dalla Svizzera l'avesse avvertito che stava per andarsene. Ma io cosa bellissima. Ma è così. Io ho la fortuna di conoscere un medico straordinario che cura i malati di SLA, e ti assicuro che molti, prima di non potersi più muovere, dicono: finché riesco a muovere una mano, vado in Svizzera che posso ingerire io il farmaco, perché poi quando non possono più muoversi del tutto non possono neanche procedere all'ingerire. Anche qui è una questione di soldi, vai in Svizzera chi ha i denari. Eh certo, costa è umiliante. Costa almeno 10.000 euro, questo per la cronaca, ormai è scritto sui giornali ovunque. In ogni caso ne parleremo in rassegna stampa tra poco, perché ovviamente i giornali si occupano di questo, anzi molti quotidiani aprono su questa tematica. Ce ne occuperemo anche più tardi. Io vi devo salutare, cara Aurora, ti devo girare un messaggio di un ascoltatore che mi dice: ti prego, fai sapere Aurora che la amo molto, è inutile che sospiri quando ha ragione. Va bene, ma io sospiravo per il traffico. Ciao Aurora Lussana e Angelo Maria Perrino, alla prossima. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti in questo istante. Questo è lo spazio dedicato alla lettura dei giornali, alla rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo, caro Peter Vescapelli, in regia, siamo tutti pronti? Possiamo andare? Avanti. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 28 febbraio e oggi i quotidiani aprono quasi tutti sulla vicenda di DJ Fabo, che è morto in Svizzera. Il Sole 24 Ore e Il Giorno invece hanno un'apertura diversa. Il Sole 24 Ore sulla chiusura agevolata per le cause con il fisco: sono 520.000 i processi arretrati, 50.000 in Cassazione. Arriva ora l'annuncio del viceministro all'economia, di voler applicare un modello simile alla rottamazione delle cartelle Equitalia. Anche Il Giorno apre su questo: fisco, ipotesi sanatoria. I contenziosi coi cittadini valgono 32 miliardi, il governo pensa alla rottamazione. E poi, dicevo, DJ Fabo, la prima notizia che approfondiremo. L'apertura del Corriere della Sera: DJ Fabo, un morso per morire, un pulsante tra i denti, e lui dice via da un inferno. Per Repubblica l'addio di DJ Fabo, ora la legge. Il Fatto Quotidiano: Fabo muore, i politici blaterano. Per La Stampa il suicidio di Fabo scuote l'Italia. Il Messaggero: una morte accusa il Parlamento. Per Il Giornale il titolo è suicidio collettivo, mentre il quotidiano La Verità, che critica questa decisione, veleno di Stato, questo è il titolo di prima pagina. Avvenire: Fabo, una tragedia che fa male e divide, suicidio assistito in Svizzera è polemica politica. Mentre l'apertura del Manifesto è fine vita, in questo caso però c'è una foto del Parlamento praticamente vuoto. Libero: in Italia puoi morire soltanto se non vuoi, il caso di DJ Fabo. E anche l'Unità: Fratelli d'Italia, DJ Fabo costretto all'esilio per una morte dignitosa. Come vedete, praticamente tutti i quotidiani aprono su questa notizia. Sono tanti gli articoli, tante le interviste. Come orientarsi in queste in questi tanti articoli? Beh, intanto partendo dalla cronaca, leggo dall'articolo di Giusy Fasano a pagina 3 del Corriere della Sera: le risate e gli abbracci circondato dagli amici. Racconta l'inviata del Corriere, anche l'anziana infermiera, che pure ne ha visti tanti di malati terminali venuti fin qui a morire, ieri mattina si è commossa davanti a quel giovane uomo che diceva parole d'addio agli amici, alla madre, alla fidanzata. Era come se Fabiano Antoniani, per tutti DJ Fabo, avesse paura di arrivare in ritardo all'appuntamento con la morte. Aveva fretta di andare, una sola preoccupazione: non riuscire a mordere il pulsante che avrebbe avviato il conto alla rovescia della sua vita. Ma voleva morire disperatamente, come diceva lui, tornare libero, fuori dalla gabbia del mio corpo. Ed eccole le ultime parole raccontate da chi era vicino a lui. «Adesso voi magari mi prenderete per scemo», ha detto agli amici salutandoli per l'ultima volta, «ma devo dirvi una cosa molto importante. Quando guidate, allacciate sempre le cinture, vi prego. Non potete farmi un favore più grande». D'altronde i soccorritori ipotizzarono che lui non avesse le cinture allacciate quando lo trovarono fuori dalla sua auto la notte dell'incidente che lo rese cieco e tetraplegico. Era il 13 giugno 2014. Poi c'è il racconto che continua dell'ultima giornata, delle visite, delle parole scritte dalla fidanzata Valeria su Facebook, soprattutto la frase «vorrei che questa notte non finisse mai». E lui che racconta la sua vita diventata ormai un inferno di dolore, di dolore, di dolore, tre volte. E ancora l'ultimo sì, quando l'infermiera, dopo aver preparato il sondino che avrebbe portato il farmaco mortale nel suo corpo, le chiede per l'ultima volta: davvero è sicuro fino in fondo di quello che sta facendo? E DJ Fabo ha detto sì. Poi appunto ha morso il pulsante perché poteva muovere solo la bocca e ha dato il via alla procedura del suicidio. Le polemiche, ci sono tante polemiche, voglio tralasciare le frasi più squallide che si sono sentite, le strumentalizzazioni. Vi segnalo l'intervista a Donata Lenzi, che è la relatrice per il Partito Democratico della legge sul fine vita, che è in discussione alla Camera, anche se c'è stato l'ennesimo rinvio. Donata Lenzi viene intervistata da Repubblica, pagina 3, da Caterina Pasolini, e dice: pensando a DJ Fabo sento soprattutto l'obbligo morale di portare a termine la legge sul fine vita. Ma diciamolo, anche se fosse stata già in vigore, Fabo avrebbe comunque dovuto emigrare. Lui aveva chiesto l'eutanasia, che è e resterà vietata. Ma questa legge lo riguarda, riguarda tutti noi, sani e malati. Il punto fondamentale di questo disegno di legge è l'importanza data alla volontà del malato. È lui che deve avere l'ultima parola riguardo alle sue cure. Dobbiamo far capire ai medici che un paziente non è solo il corpo, la malattia, ma una persona fatta di relazioni, convinzioni, fede, della storia della sua vita. La volontà del paziente da rispettare e la possibilità di rifiutare idratazione e nutrizione sono i punti fondamentali della legge. E allora che cosa divide da mesi i politici, chiede Repubblica? E la relatrice della legge, Donata Lenzi, risponde: oltre al ruolo del medico, divide il fatto che nel disegno di legge consideriamo idratazione e nutrizione delle cure e quindi rinunciabili da parte del malato. Non stiamo parlando di pappe o di panini, ma di sondini nasogastrici messi da medici e attraverso i quali entrano liquidi prescrivibili da sanitari. In ogni caso, riguardo al suicidio assistito, dice Donata Lenzi, in Italia il suicidio non è vietato, non è reato, anche se mi rendo conto che è cosa ben più tragica gettarsi dalla finestra che morire con una pozione, come è accaduto in Svizzera. Penso che magari un giorno si arriverà ad approvare una legge sul suicidio assistito se verranno spostati i limiti culturali. Però rimane contraria all'eutanasia la relatrice alla legge, perché dice: sono preoccupata dal fatto che in un paese con una popolazione sempre più anziana, con una sanità in crisi, l'eutanasia finisca con l'essere non una libera scelta culturale, ma possa essere modificata da situazioni esterne, dagli alti costi economici dell'assistenza. Così Donata Lenzi su Repubblica. Tra l'altro La Stampa rivela un retroscena, perché tutti hanno fatto notare che DJ Fabo aveva fatto un appello, ricordate, al Presidente della Repubblica Mattarella, appello al quale non c'è stata una risposta pubblica. In realtà Francesco Grignetti sulla Stampa, pagina 3, fa sapere che dal Quirinale, cioè da dove insomma risiede il Capo dello Stato, c'è stata una risposta. Dal Colle una comprensione umana, ma nessun intervento diretto. Questo è il titolo dell'articolo. Si racconta di quando Marco Cappato, il radicale che ha accompagnato DJ Fabo in Svizzera, è stato contattato dal Quirinale dopo l'appello di DJ Fabo con l'invito di andarlo a trovare. Venga a trovarci, gli hanno detto. Non sarebbe stato un incontro diretto con il capo dello Stato, ma con due tra i suoi consiglieri più stretti, vale a dire Giancarlo Montedoro, consigliere di Stato agli affari giuridici, e Luisa Corazza, consulente per le questioni di carattere sociale. È avvenuto questo incontro il 17 febbraio scorso. Forse Marco Cappato si attendeva qualcosa di più, forse si aspettava un segnale politico, mentre in cambio ha avuto vicinanza umana in questo incontro da parte dei due funzionari del Quirinale. Quindi una risposta, anche se non pubblica e non come forse si aspettava Marco Cappato, c'è stata, ed è questa, e la racconta oggi La Stampa a pagina 3. Comunque sono tanti gli articoli e ne parleremo e approfondiremo poi gli argomenti anche con le vostre telefonate dalle 8:15. Ora vogliamo cambiare argomento, parlare di una cosa che mi ha colpito. È un po' messa sotto traccia sui giornali, in realtà è un allarme molto concreto dato da Alessandro Pansa, che è il direttore generale del Sistema di Informazioni per la Sicurezza, insomma i servizi segreti italiani, e Repubblica e La Stampa danno risalto a questa minaccia. In Italia è allerta ISIS per i lupi solitari. I servizi dicono: il nostro ruolo internazionale ci espone al rischio attentati, non è escluso l'utilizzo di armi chimiche. Giampaolo Cadalano lo scrive su Repubblica, Francesco Grignetti lo scrive sulla Stampa, pagina 16, di 007 allerta Italia più esposta al terrore islamico, siamo minacciati dai lupi solitari dell'ISIS. Mi sembra una minaccia da mettere, come dire, in rilievo. Lo fanno questi due quotidiani nel giorno in cui il Corriere della Sera racconta, ed è la prima volta che emerge questa storia, lo fa Giuseppe Guastella scrivendone a pagina 6, racconta la storia di Fabrizia Di Lorenzo. Non so se ricordate, Fabrizia Di Lorenzo è l'unica vittima italiana dell'attentato a Berlino con 12 morti compiuto da Anis Amri, il tunisino che poi fu fermato in un controllo di polizia e ucciso a Sesto San Giovanni, Milano. Ebbene, parlano per la prima volta i genitori di Fabrizia Di Lorenzo e fanno delle accuse molto dure, molto gravi alla Germania. La nostra Fabrizia uccisa da Amri, dalla Germania nessun rispetto. Intanto è escluso un risarcimento, perché pensate, c'è una legge del 1985 in Germania che esclude il risarcimento per i danni causati alle vittime di crimini violenti commessi con un veicolo a motore o un rimorchio. E quindi nessun risarcimento. Ma poi dicono: quando siamo andati in Germania siamo rimasti con funzionari che non hanno mai scambiato una parola per noi, non abbiamo mai incontrato un interprete. Il governo tedesco è stato totalmente assente, se si esclude la poliziotta che mi ha prelevato il DNA senza dire una parola, racconta così la madre. Non ci hanno mai contattati, non ci hanno mai fornito un interprete, ci hanno lasciati soli. Abbiamo dovuto chiedere sempre, insistere. Hanno fatto lo stesso con le altre famiglie, anche le famiglie tedesche. Insomma, i familiari sbalorditi del comportamento della Germania. Tra l'altro dicono: non c'è alcun importo in euro che possa pagare la morte di nostra figlia, ma un risarcimento significherebbe ammettere le responsabilità per non avere fermato un criminale noto da anni, per non aver preso precauzioni come le barriere installate dopo l'attentato. Invece nulla. Raccontano da Sulmona, in provincia dell'Aquila, lo fanno per la prima volta col Corriere della Sera, questa sorta di abbandono da parte della Germania. Ma eccolo qui, siamo all'articolo che mi fa più della giornata. L'articolo da mani sul volante se siete alla guida. È uscito il libro nuovo di Mario Giordano che racconta, il titolo è molto eloquente, si intitola Vampiri. E racconta chi sono i vampiri delle pensioni, i pensionati d'oro che intascano a spese nostre anche 1500 euro al giorno. Cioè non al mese, caro Peter, non all'anno, al giorno. Mario Giordano, due pagine sulla verità di anticipazione del libro. Antonio Malaschini, già sottosegretario del governo Monti, 43.000 euro lordi di pensione al mese, 43.000 euro lordi. È stato nominato il 12 settembre 2016 vice capo di gabinetto al ministero di Piercarlo Padoan. In effetti con 1.500 euro al giorno di vitalizio non è forse la persona giusta per spiegare agli italiani come fare economia? Malaschini, va detto, esercita la sua funzione al ministero a titolo gratuito, ma noi resta il dubbio, è possibile che ci sia in Italia uno che soltanto per aver fatto il funzionario in Senato prenda 43.000 euro al mese di pensione? Ed è possibile che costui continui ad andare a caccia di incarichi ministeriali? Ebbene sì, è possibile. Ma qui inizia un lungo elenco dei pensionati d'oro, il presidente della Consob, Vegas, che ha una pensione da ex funzionario del Senato di 25.000 euro lordi al mese, che somma i 20.000 euro che gli arrivano dall'incarico in Consob. Antonello Soro, garante per la privacy, pensione da ex medico ospedaliero da 6.000 euro al mese e un vitalizio da ex consigliere della Sardegna da 5.371. E ancora i banchieri, il presidente dell'ABI, Patuelli, ex parlamentare, 4.725 euro lordi al mese. Roberto Mazzotta, presidente di Mediocredito, ex presidente di Cariplo, 4.815 euro di vitalizio dalla tenera età di 43 anni, e così via, ma sono decine, decine, decine. E scrive Giordano, già sento le rimostranze dei vampiri che dicono abbiamo seguito le regole, non abbiamo violato nessuna legge, è vero, hanno seguito le regole, non hanno violato leggi, ma sono queste regole, queste leggi che appaiono ogni giorno più insostenibili e insopportabili. Eccoli qui, i vampiri delle pensioni. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il più bischero dell'informazione. Oh, su questo non c'è dubbio, cari ascoltatori. Allora, alle 7:37 minuti siamo qui. La politica è piena rissa nel Partito Democratico. Leggo dai titoli proprio dei giornali. Leggete qui, pagina 8 del Corriere della Sera. Rissa tra PD ed ex. Ora attaccano D'Alema e Bersani. Cosa ha detto D'Alema di Renzi? È un guappo. Per Bersani invece sta portando contro un muro il paese, il PD e i destini individuali. Questo racconta Monica Guerzoni nell'articolo a pagina 8. Ormai non si risparmiano davvero le parole e gli insulti. Tra l'altro, nel giorno in cui, questa è la retroscena forse più interessante di quello che si muove sotto le ceneri della politica, nel giorno in cui, dicevo, Renzi è andato a casa di Sala, sindaco di Milano, per le prove di disgelo con il sindaco. Maurizio Giannattasio racconta di questo faccia a faccia, un'ora di colloquio, per ricucire un rapporto che si è logorato negli ultimi mesi, ossia dal giorno dopo la sconfitta del referendum, con alcune visioni opposte, per esempio sulla tenuta del governo Gentiloni. Il sindaco di Milano Sala ha detto più volte Gentiloni deve arrivare fino alla fine della legislatura. E poi l'ultima dichiarazione in ordine di tempo del sindaco di Milano, che non è piaciuta a Renzi, è questa: non ho ancora deciso per chi votare alle primarie del PD. Ecco allora il tentativo di ricucire lo strappo. Ieri Renzi e Sala si sono visti a casa del sindaco di Milano per cercare di un riavvicinamento. In tutto questo anche a destra c'è un po' di maretta, soprattutto perché Berlusconi sta tentando quella che Repubblica definisce una vera e propria OPA sulla Lega, l'OPA del cavaliere sul carroccio, un'OPA ostile, li svuoto e poi facciamo il listone. Questo sarebbe il motivo per cui a ogni piè sospinto Berlusconi indica Luca Zaia come il candidato possibile sempre che non sia lo stesso Berlusconi, per il centrodestra. Luca Zaia, governatore del Veneto, è della Lega e dire il nostro candidato, se non sarà Berlusconi, lui parla di sé in terza persona, come abbiamo fatto sentire, se non sarà Berlusconi sarà Luca Zaia, è un modo così per intesire rapporti con Salvini. E infatti Salvini viene intervistato da Repubblica e dice... Alla domanda Berlusconi prova a dividervi, sono orgoglioso che da altri partiti si indichino uomini della Lega. Zaia ha ribadito che farà il governatore del Veneto, come Maroni farà quello della Lombardia. Il nostro candidato c'è ed è il segretario della Lega. Anche Salvini parla di sé evidentemente in terza persona. Noi stiamo lavorando sul programma. Però Berlusconi lancia Zaia a chiedere Repubblica. Se pensa così, ha sbagliato a capire. L'obiettivo è estendere il modello di buon governo di Lombardia, Veneto e Liguria a livello nazionale e stiamo costruendo un progetto alternativo a Renzi, ben chiaro. Va bene, d'altronde Berlusconi dice ai suoi, in questo articolo retroscena di Carmelo Lo Papa, io faccio con Zaia quello che Salvini da mesi fa con Giovanni Toti, che è di Forza Italia, a capo della Liguria, ma lui in qualche modo lo cita. E quindi Maretta nel centrodestra. Tra l'altro... vi segnalo che ci sono vari articoli, e qui si giocherà molto della prossima campagna elettorale, delle proposte per cercare di diminuire le disuguaglianze sociali. Faccio una premessa, è una cosa sacrosanta ed è bene ed è giusto che la politica parli di aiutare i più deboli, le fasce più disagiate. Il mio sospetto però è che se ne parli in campagna elettorale, state attenti e drizzate le antenne per acchiappare i vostri voti e basta. Perché altrimenti mi dovrebbe spiegare perché la politica per 20 anni ha parlato di quoziente familiare, di aiutare le persone che hanno più figli, di favorire col welfare chi è in difficoltà e poi non ha fatto niente. Casualmente è un fiorire di proposte ora che si avvicinano le elezioni. In ogni caso... registro. La Stampa, Alessandro Barbera, la sfida di Renzi al piano grillino. Il piano grillino è quello del reddito di cittadinanza. Renzi invece lancia il lavoro di cittadinanza, un aiuto da 500 euro al mese, un sostegno medio di 500 euro per chi è in condizioni di povertà o disoccupato. Il costo è 4 miliardi e mezzo di euro l'anno. A volerla spiegare in estrema sintesi, scrive La Stampa, è questa la proposta alternativa di Renzi al reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. E poi guardate il Messaggero, Emilio Pucci a pagina 7, il welfare 2.0 di Berlusconi. Dobbiamo garantire la sanità gratis solo ai poveri, abbiamo la nuova missione, dice Berlusconi, la nostra vocazione è proteggere i più deboli. Berlusconi ha proprio in mente una vera e propria rivoluzione copernicana con un welfare 2.0 da spendere per le prossime elezioni, una sorta di piano Marshall per le famiglie. Tutti così quando sono in campagna elettorale, tutti così. E infatti se ne accorge Michele Serra, che oggi su Repubblica, nella sua amaca in prima pagina, scrive questo. Renzi ha detto una cosa di sinistra, il lavoro non è solo un salario, è anche dignità. Dunque non ci vuole un salario di cittadinanza, che sarebbe assistenzialismo, ma un lavoro di cittadinanza. Bene, anzi benissimo. Ma dove diavolo andare a scovarli o a inventarli questi nuovi lavori? Con quali risorse finanziarli? A quali bisogni sociali riferirli? Che occhiali inforcare per poterli vedere? Provi a parlarne, Renzi, ai suoi anfitrioni californiani, ai suoi amici della City, e vedrai sorrisetti di compatimento. Dove sta il business, Matteo? Il lavoro di cittadinanza non può che essere in larga parte lavoro sociale, riparazione del welfare essiccato, del territorio sdrucito, della socialità ferita. I primi ai quali bisognerebbe rivolgersi per definirlo sono quelli che vivono in trincea, certi movimenti di strada, i preti di territorio, quelle ONG che producono più di quanto pigliano, i pezzi di sindacato che ancora pensano e studiano, tutta gente che alla Leopolda o non è stata invitata o non voleva andarci, gente che non ama Renzi e che Renzi non ama. Piuttosto che riconoscere di avere bisogno l'uno degli altri, crepano in solitudine. Difatti è quello che stanno facendo. E allora dove si trovano tutti questi soldi? Meno male che noi abbiamo uno che ce lo dice tutti i giorni, ha le risposte pronte. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Beh, innanzitutto c'è questa ipotesi di rottamazione delle liti, se vogliamo parlare di recuperare del denaro, non va bene per quello che ci chiede l'Unione Europea, guarda che è stato precisato, ma oggi sul Sole 24 Ore, non solo come titolo di apertura, come titolo principale, ma anche a pagina 3, tutte le ipotesi, l'ipotesi di rottamare le liti. Tu hai una lite con il fisco? No, però, stai litigando con il fisco. Non sto litigando. La cartellina esattoriale invece quella adesso... si può già rottamare, come sai, ecco. Beh, comunque tutti i particolari, 520.000 liti, la stima è che ci siano in ballo circa 100 miliardi, quindi insomma si può andare a recuperare qualcosa lì. Tutti i particolari in cronaca, cioè sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, e poi ti voglio dire, tra le altre cose, oggi c'è Moda 24. Tu dirai, come mai? È martedì c'è il condominio. Infatti. Ma infatti c'è anche il condominio, vorrei tranquillizzarti su questo. No, ma ci sono anche le pagine di Moda 24, perché si è conclusa la settimana della moda qui a Milano, quindi riferiamo anche delle sfilate, delle tendenze emerse nella settimana della moda. Poi naturalmente, come si conviene a ogni buon martedì, la pagina del condominio, ti segnalo questa volta che ci sono anche le nuove disposizioni da poco entrate in vigore: se imbratti i muri ti possono anche condannare a ripulirli oppure a pagare qualcuno che li ripulisca per te, quindi non scribacchiare sui muri, mi raccomando, anche sui muri della fede, Alessandro. Anche l'ascensore? No, anche in ascensore, possibilmente, non dovresti proprio imbrattare in giro così a casaccio. Oh, poi naturalmente ti voglio segnalare che c'è uno studio che anticipiamo dell'Unione Europea sulla proprietà intellettuale che dice che l'Italia è primatista europea di smartphone contraffatti, ohimè. È il paese europeo, in altri paesi del mondo si sta anche peggio, ma diciamo che noi ci battiamo bene a livello continentale. E poi le pagine di finanza che tu leggerai avidamente, bravissimo, anche perché si parla di te, cioè no, si parla del Milan, perché sai che questa è la settimana decisiva, sì. È la settimana decisiva per la cessione, ma invece io vorrei che tu ti concentrassi, volassi più alto e leggessi anche quello che riguarda l'Italia, che non è una vicenda molto edificante. Adesso c'è questa ipotesi appunto di accordo con EasyJet oppure con Lufthansa, leggi nelle pagine di finanza avidamente. In ultimo, ma non per questo meno importante, articolo da meditazione, l'esodo delle donne magistrato, ne riferiamo dalla prima pagina e poi nelle pagine dei commenti, perché? Perché di fatto insomma la carriera sembra un pochino preclusa e non cosa da donne in magistratura, che peraltro sono la maggioranza. Spiega tutto Donatella Stasio e per oggi, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Sandro Milan, il no woman no cry dell'informazione. No woman no cry. No woman no cry. Mi metti sempre in difficoltà, Peter. Adesso come si fa a continuare la rassegna stampa? Mi piace più la versione live, però va bene comunque. Oh, uno che sarebbe piaciuto certamente a Donald Trump, Bob Marley, eccolo qua, Donald Trump, che nella notte ha annunciato 54 miliardi di più alla difesa. È quella che Marco Valsagnara sul Sole 24 Ore definisce un asso nella manica alla vigilia del suo discorso al congresso a Camere riunite alla nazione divisa. L'aumento della spesa militare del 10%, un assegno da 54 miliardi di dollari per dimostrare che fa sul serio. Questo Donald Trump, tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore a pagina 8. A proposito di esteri, invece, Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera oggi racconta una storia che certo, se vera, non fa onore all'Italia. Iraq, scandalo al consolato italiano, visti venduti per 10.000 euro. Racconta Lorenzo Cremonesi a pagina 15 del Corriere, sono almeno 152 casi. Scoppia il Visa Gate al consolato italiano nel Kurdistan iracheno a Erbil. Procedure di visto per l'Italia pagate fino a 10.000 euro quando costerebbero 90 euro. È ormai quasi un anno che dalla sede della rappresentanza italiana Erbil giungono voci di bustarelle, operazioni poco pulite per ottenere l'agognato visto che permette l'accesso all'area Schengen. Ora, il Ministero degli Affari Esteri vuole vederci chiaro, ha mandato una commissione a indagare. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero almeno 152 visti ottenuti pagando cifre esorbitanti e comunque molto più alte delle tariffe ordinarie. Questo racconta il Corriere della Sera. Rimanendo sullo stesso quotidiano, ma l'intervista c'è anche su Repubblica, parla per la prima volta e annuncia l'apertura del più grande negozio a Milano e quindi in Italia, Howard Schultz. Chi è, direte voi, Howard Schultz? È il CEO, il numero uno di Starbucks. Le polemiche che sapete, le palme a Milano, mamma mia, piante meravigliose, peraltro chi attacca una palma, io lo vorrei vedere qui davanti, piante fantastiche, io come ho detto me ne metterei una anche nel letto di palma. Comunque, parla Howard Schultz, racconta il progetto su Starbucks, è intervistato da Daniela Polizzi sul Corriere della Sera e da Giuliano Balestreri su Repubblica. Intanto racconta: faremo un negozio che sarà un punto di torrefazione che occuperà gran parte dei 2500 metri quadrati di superficie, sarà una fabbrica del caffè come quella storica di Seattle, poi replicata nel negozio di Shanghai, in quelli che saranno aperti a New York e Tokyo. Daremo complessivamente lavoro a 350 persone. Mi sembra che questa sia una cosa positiva, o no? Che ne pensate? Parla anche delle palme. Sì, sì, arriva la domanda sulle palme. Immaginavate tanta polemica sul giardino di Piazza Duomo? Pensavamo di offrire qualcosa di bello alla città, risponde Schultz, ma ogni mercato può presentare temi diversi. In questo caso Starbucks è finita dentro un problema di tipo politico. Mi dicono però che i milanesi all'inizio criticano, ma poi si affezionano. Non si poteva scegliere un progetto alternativo? Vabbè, dice, le piazze, le palme in Piazza Duomo piaceranno. Ecco, e liquida così la questione, il numero uno di Starbucks. Oh, altra polemica invece, sapete, sono i compensi, i 240.000 euro di tetto massimo per gli artisti, tutti coloro che lavorano in RAI, come il Consiglio d'amministrazione ha detto bisogna imporre perché lo prevede una legge. Oggi Monica Maggioni, che è presidente della RAI, prende carta e penna e scrive una lunga lettera al Corriere della Sera, una lettera che sintetizzo così, la trovate a pagina 7. Il tetto ai compensi RAI è un dibattito populista, scrive la presidente della RAI. Stiamo assistendo a un dibattito che sconta un'evidente deriva populista. Quando si critica la RAI ci si rifà spesso alla BBC. Ebbene, nel Regno Unito non si è mai nemmeno ipotizzato di stabilire un tetto agli stipendi dei talenti artistici. Un'autorevolissima fonte della TV pubblica britannica mi ha detto di aver definito outrageous l'idea di un tetto stabilito per legge con la quale qualsiasi competitività sarebbe negata, e mi ha ricordato che vi sono professionisti che nella BBC guadagnano milioni di sterline l'anno, un discreto numero di loro si assesta tra i 450.000 e i 2 milioni di sterline, ma non per questo i vertici della BBC vengono additati come dissipatori di denaro pubblico. È il momento di dire con chiarezza dove vogliamo andare, se la RAI sia ancora un'istituzione centrale del paese che agisce da media company o se la sua natura pubblica debba essere la sua condanna. Questa Monica Maggioni sul Corriere della Sera. Voglio fare un applauso al signor Giuseppe Ottaviani, che compirà 101 anni tra qualche giorno. 101 anni il 20 maggio e a 100 anni, quasi 101, è diventato primatista mondiale italiano, l'italiano Giuseppe Ottaviani, primatista mondiale di salto in lungo con 1,16 m. 92 minuti di applausi a scena aperta. Ma siamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina di Repubblica che racconta come siano cambiate le mode delle maschere di carnevale. Addio Pulcinella, carnevale, ora è meglio vestirsi da Belen. Ma chi se ne frega!